È un fenomeno complessissimo che da una parte, dal punto di vista strettamente ideologico, una storia antica, cioè nel senso una storia che nasce, diciamo, alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, con la scuola di pensiero della Nouvelle Droite francese, la nuova destra francese, personaggi come Alain de Benoist e tutta la scuola di quello che è stato l'evoluzione, di quella che è stata l'evoluzione del pensiero dell'estrema destra in Francia, in parte anche in Inghilterra, quindi a radici storiche che risalgono a qualche decennio fa. Tra l'altro con come dire, un punto importante che è quella del pensiero gramsciano, perché loro sono partiti all'epoca dall'idea di riconquistare una sorta di egemonia culturale in senso gramsciano da parte della destra radicale. Dall'altra c'è stata un'accelerazione negli ultimi 5-6 anni, probabilmente dopo forse la data di svolta tra 2013 e 2014, dove da un punto di vista strettamente organizzativo si sono messe insieme una serie di parti di quella che per ora è ancora una galassia nera, che però si sta trasformando lentamente in qualcosa di più solido, una sorta veramente, veramente internazionale. Che succede tra 2013 e 2014? C'è intanto un riassetto geopolitico importante, pensiamo ad esempio a quello che avviene in Ucraina, pensiamo, come dire, a un ritorno dell'ingerenza anche in Russia su tutta quella che è la fascia dell'Est Europa. Ancora prima, qualche anno prima, 2010, in Ungheria Orban vince per la prima volta le elezioni, quindi diventando la apripista di quello che saranno poi i governi sovranisti, identitari, nazionalisti, fascisti, chiamiamoli come vogliamo, è una stratificazione di pensiero sicuramente. Nel 2014 nasce negli Stati Uniti Breitbart, che è l'ausorgan dell'alt-right statunitense, dove viene Steve Bannon, che oggi è il promotore di questo gruppo, di movement, che sta racchiudendo i movimenti, i partiti, gli esponenti sovranisti, nazionalisti, identitari in tutta Europa. Quindi è un percorso che è nato qualche anno fa, che oggi vediamo arrivare a chiedere il conto. Perché sta crescendo questa ondata di estrema destra? È una mistificazione. The Time chiama Bannon il grande mistificatore. Oggi sulla stampa parlo appunto anche della nascita dei movement. C'è un passaggio che secondo me è interessante, che questo avvocato di Bruxelles, Michael Modric Amen, avvocato d'affari molto noto, politico fondatore del Partito Popolare, che è un piccolo partito 2% estrema destra in Belgio, che da una parte come carriera, come sua estrazione culturale, rappresenta le élite finanziarie più importanti, più forti, più legate al capitale internazionale. Dall'altra, nei suoi discorsi che troviamo su Facebook, parla di una rivolta delle masse contro il capitale finanziario. Questa è la grande mistificazione, perché in realtà centrali, queste strutture dell'estrema destra identitaria, che vanno da Bannon a Salvini, a quelli che sono, diciamo, i gruppi del Visegrad 4, cioè dei paesi dell'est europeo, all'Austria, questi vari gruppi politici sono i rappresentanti, diciamo, forse del peggior capitalismo che abbiamo avuto in Europa e negli Stati Uniti. Nello stesso tempo propongono un discorso, una narrazione identitaria, sovranista, rivoluzionaria, antisistema, dove dicono di rappresentare le masse più povere contro l'elite, contro la casta, ma sono loro la prima casta e la prima elite. Sono loro i veri rappresentanti di quello che è il capitalismo internazionale peggiore, nel senso, ad esempio, legato a tutta quella che è, ad esempio, l'industria della sicurezza. Non è un caso che uno dei temi importanti sia la migrazione. Ma cosa c'è dietro la migrazione? C'è il concetto di confine. Il confine è qualcosa da difendere, il confine vuol dire tanti, tanti soldi, tanti interessi, ad esempio, proprio nell'industria della sicurezza. Quindi io andrei a ricostruire anche quali sono i veri interessi, non tanto, come dire, ideologici, ma quanto proprio concreti, reali, di potere, che si nascondono dietro questa avanzata sovranista. A iniziare, ad esempio, da Trump, da una parte, e Putin dall'altra. Proprio questo avvocato belga, in un'intervista rilasciata a Russia Today qualche tempo fa, questo avvocato è il fondatore di The Movement, come racconto oggi sulla stampa, parla di un nuovo asse che va da Trump a Putin, passando per l'Europa, in funzione anti-islamica. È evidente che l'interesse in questo senso è geopolitico, e ancora una volta di interesse, ad esempio, dell'industria della sicurezza. In questo senso penso ci sia buona parte di mistificazione, di populismo nel senso di manipolazione del popolo. no? Che è uno degli aspetti anche del populismo, che va raccontata, va spiegata, va mostrata. Infatti mentre parlavi mi veniva in mente un film di 3 anni fa, La Grande Scommessa, che racconta, diciamo, la crisi economica di cui fra poco ricorre il decennale. Alla fine uno dei personaggi, Mark Baum, che è un pseudonimo di un businessman investitore americano, afferma: ho la sensazione che tra qualche anno la gente dirà quello che dice sempre quando l'economia crolla, daranno la colpa agli immigrati e alla povera gente. È un po' quello che sta accadendo, quindi. Sì, allora, questo è l'altro aspetto, perché c'è un terzo aspetto, quindi un aspetto ideologico, un aspetto, come dire, economico, di potere, e poi c'è un terzo aspetto, che forse è poi quello anche più importante, che è quello appunto della crisi e della situazione, soprattutto nelle periferie urbane in Italia, ma non solo. Penso alla Francia, ad esempio a Parigi c'è una situazione nelle banlieue veramente complicata, di mancata integrazione, prima cosa, cioè c'è stata una politica folle di mancata integrazione reale dell'immigrazione senza un progetto culturale, cioè l'Europa, l'Italia non è stata in grado di pensare che progetto culturale io offro di fronte a una migrazione che non posso arrestare, perché è un fattore storico, no? Non ci si è posto neanche il problema anche da parte della sinistra. L'unica risposta è stata quella securitaria da un certo punto di vista anche da parte del governo della sinistra, oppure quella della ghettizzazione, anche tutto il sistema degli SPRAR, che è utile, che è importante, indispensabile, ma è un sistema per escludere dai corpi sociali poi la migrazione, continuare a mantenerli come corpo separato. Dall'altra c'è un problema occupazionale, un problema della casa, soprattutto esempio penso alle periferie romane, dove il problema della casa è gigantesco. C'è un problema di, se vogliamo, anche di tessuto sociale, di stare insieme, nel senso di stare insieme, che non regge più. E su questo malessere diffuso, storico, strutturale, la sinistra non è stata più capace di, neanche dico di inserirsi, ma neanche di dialogare, nel senso che, pensando anche a Roma, ormai le periferie romane, la sinistra è diventata un lumicino, lasciando aperte le porte a chi? A quelle avanguardie fasciste, come appunto come Casa Pound, come Forza Nuova, che sono semplicemente l'avanguardia, che servono a conquistare il territorio ad uso e consumo invece di quello che è la struttura politica più importante, che è quella appunto nazionalista, sovranista. Mussolini all'epoca aveva bisogno delle squadracce nere in giro per le strade, ma poi il suo obiettivo era quello di conquistare il potere a Roma, nel Parlamento, insomma. Quindi in questo senso il terzo elemento sicuramente è il disagio, che è fortissimo, e la mancata, neanche risposta, la mancata riflessione da parte della sinistra rispetto a questo disagio, che ha aperto le porte, le strade ad una facilissima conquista da parte di chi propone una soluzione semplice, sbagliata ma semplice, che è quella appunto di scagliarsi contro i migranti. A Rocca di Papa abbiamo visto una scena ignobile, arrivare 100, ben 100, pensate che grande numero, migranti eritrei, rifugiati, fuggiti da una guerra. Quello che ha avuto incredibilmente successo è stata la frase spettacolare di Ivano, questo antifascista ai Castelli Romani, che diceva: a questi poveracci mancava pure la rottura di coglioni dei fascisti. Dall'altra parte c'era Casa Pound che li insultava, che cantava l'inno nazionale a difendere che cosa, non si è mai capito, no? Quella è una scena che rivela poi quello che è il nostro paese. Da una parte, come dire, mancava la sinistra istituzionale, non c'era nessuno del PD, non c'era nessuno del, diciamo, della sinistra parlamentare, chiamiamola così, c'era un popolo di sinistra che ancora resiste, che parla con la pancia, che conosce quello che è sentire popolare, che è in grado di reagire. Dall'altra però c'hai poi le bande fasciste che si schierano, come dire, anche quasi militarmente a volte, no? Quello, diciamo, è stata per me una scena molto forte e che racconta molto quello che sta avvenendo.